Focus Economia. Buonasera da Valentina Furlanetto, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Sono le 17.05 minuti e 55 secondi. Oggi parleremo della ripresa, se la ripresa ci sarà, quando questa famosa ripresa si paventerà, quanto sarà forte, chi ne potrà beneficiare, soprattutto se l'Italia ne potrà beneficiare. Si parla di ripresa V, chi parla di ripresa W, chi ha delle, ma fuori di metafora c'è da capire se i segnali positivi che si intravedono almeno per alcuni paesi, ci sono stati alcuni dati macroeconomici americani che hanno dato un po' di ottimismo oggi, anche ieri, insomma, se questi segnali possono considerarsi l'inizio di una nuova stagione positiva o è solo un'illusione. Poi andremo in Francia, dove si preannuncia una stagione invece dura per i banchieri. Parleremo anche di borsa, come sempre, guardando come stanno andando i mercati quest'oggi. Nella seconda parte, nell'ultima parte di Focus Economia, ci occuperemo della questione risanamento. La società immobiliare, come sapete, che rischia il fallimento, dopo domani c'è il CDA, ce ne occuperemo quindi nell'ultima parte, ma ora vediamo quali sono le notizie economico-finanziarie della giornata. Il petrolio è sceso $71.30 al barile al mercato di New York dopo l'aumento delle scorte di greggio statunitensi. La scorsa settimana gli stock di petrolio sono aumentati di 128.000 barili a quota 343 milioni di barili, mentre le previsioni indicavano un calo a 1,15 milioni di barili. Le scorte di benzina sono diminuite di 1,70 milioni di barili a 208 milioni di barili contro la stima di una flessione. E poi, per quanto riguarda l'Italia, i consumi petroliferi italiani, dice l'Unione Petrolifera, nel mese di luglio 2009 hanno fatto segnare una flessione del 6% rispetto allo stesso mese del 2008, attestandosi a circa 6,8 milioni di tonnellate. E parliamo di BOT, ancora rendimenti in calo per i BOT a sei mesi. Nell'asta di oggi, i 10 miliardi di euro di buoni ordinari del Tesoro hanno spuntato un rendimento dello 0,55%, buona la richiesta, superiore a 16 miliardi. E andiamo alle notizie che riguardano l'economia internazionale. Oggi il New York Times scrive: la sfida di Bernanke nel corso del suo secondo mandato sarà quella di ritirare nei tempi e nei modi giusti gli strumenti messi in campo per fronteggiare la crisi. Ieri, lo sapete, il presidente americano Obama ha confermato Bernanke alla guida della Federal Reserve. Il New York Times scrive: dovrà cercare il governatore di evitare gli errori commessi nel 1937, trasformando troppo rapidamente la Fed da salvatore a stretto regolatore. Il compito di Bernanke non si presenta facile, anche perché l'espansione del ruolo della Fed durante la crisi espone la banca centrale a pressioni politiche, e questo preoccupa ovviamente l'editorialista del giornale. E poi ancora notizie dagli Stati Uniti che riguardano il mondo immobiliare. Le vendite di abitazioni nuove negli Stati Uniti a luglio hanno segnato un balzo mensile del 9,6% al tasso annuo di 433.000 unità. Il dato è di gran lunga superiore alle previsioni degli analisti. E ancora sul mercato dell'auto americano, le vendite americane dell'auto sono in forte calo fino a fine anno. Questo è previsto secondo l'emittente televisiva CNBC da JP Morgan. Il piano di incentivi alla rottamazione varato dall'amministrazione si è concluso dopo la concessione di alcune proroghe e lo stanziamento di ulteriori fondi da parte dell'amministrazione, che aveva inizialmente previsto di destinare 1 miliardo al progetto. Poi, data l'elevata richiesta, ha alzato il budget a disposizione a 3 miliardi. Notizie ora dall'Europa, la Germania, e dalla Germania arrivano dei segnali positivi per quanto riguarda la possibile ripresa, come dicevamo all'inizio, che sarà il tema principale della puntata di oggi. L'indice IFO, che è l'indice che misura il clima di fiducia fra le imprese tedesche, ad agosto è salito a 90,5 punti dagli 87,4 del mese precedente. Si tratta del quinto rialzo consecutivo e del valore massimo registrato da settembre 2008. risultato è anche superiore alle attese degli analisti, fissata a 89 punti. E sempre dalla Germania arrivano notizie per quanto riguarda la Opel, il destino della casa automobilistica tedesca. Il governo tedesco continua a preferire il piano presentato dal consorzio guidato da Magna per l'acquisto della Opel a quello proposto dalla belga RHJ International. Lo scrive oggi l'agenzia stampa DPA, che cita fonti vicine ai negoziati. Secondo l'agenzia di stampa, le probabilità di farcela del fondo belga non sono migliorate, nonostante le indiscrezioni di stampe emerse oggi che farebbero pensare il contrario. E andiamo all'Italia. L'Italia Bombassei, il vicepresidente di Confindustria Alberto Bombassei dice: a settembre, ottobre e novembre, pur essendo l'economia in ripresa, qualche problema ci sarà sul fronte dell'occupazione. Bombassei ha detto: mi auguro che il problema sia limitato e che, anche se ci si perderanno dei posti, le misure prese saranno poi sufficienti per arginare gli effetti sui consumi. Quanto ai contratti, lo ricordate, ne abbiamo parlato anche ieri della questione dei contratti. Secondo Alberto Bombassei, vicepresidente di Confindustria, il nuovo modello si avvicina molto di più ai paesi europei. Inoltre, se è vero che solo il 30% delle aziende mediamente hanno un contratto di secondo livello, dice, è anche vero che queste raccolgono il 70% dei lavoratori. E ancora, il ministro per il welfare Maurizio Sacconi ha detto che le risorse per la cassa integrazione sono sufficienti anche per le peggiori ipotesi. Secondo Sacconi, quindi parliamo ancora di occupazione, settembre sarà impegnativo per ragioni connesse alla grande crisi globale, anche se noi probabilmente, ha detto, ci stiamo avvicinando al punto di uscita. Il ministro esprime preoccupazione, oltre che per il lavoro, soprattutto per la liquidità delle imprese, e confida nell'accordo tra imprese e ABI. Confidiamo, ha detto, che possa tradursi in comportamenti concreti di moratoria. E ha parlato anche degli ammortizzatori sociali il ministro del welfare Sacconi. Purtroppo sarà un autunno freddo, ha detto, cioè nel quale, pur avvicinandosi il tempo di uscita dalla crisi, le imprese soffriranno dell'allungamento della crisi stessa. Intervistato dalla nostra Anna Marino, che si trova al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, il ministro Sacconi è poi tornato sulla questione salariale, sulla proposta di CISL e UIL di azzerare la tassazione sul secondo livello contrattuale. Tutti sposiamo un sogno, poi questo si confronta con la realtà. La detassazione è il 10%. E la sua conferma sarebbe un buon risultato. Lei ha parlato di un autunno duro, dopo le parole di Epifani si può aprire qualche spiraglio? Non lo so, dipende dal rapporto fra le organizzazioni sindacali. Per quanto riguarda i voucher, si può parlare anche di un discreto successo, importante successo per come sono andate fino adesso? I voucher stanno funzionando bene in una fase in cui ancora non sono agevoli nelle modalità di acquisto e di sconto successivo, ma stiamo arrivando a diffonderli presso tutte le tabaccherie e tutti gli uffici postali, e credo che potrà esserci ragionevolmente un'esplosione nell'uso dei voucher e quindi un'emersione di molti rapporti di lavoro. Sì, quindi sarà anche una lotta, diciamo, all'evasione, saranno uno strumento. È uno strumento straordinario di emersione di ispezioni lavorative altrimenti condannati all'irregolarità. E sempre a Rimini ha parlato anche il presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni, ha detto che bisogna collegare il quoziente familiare agli ammortizzatori sociali. Formigoni ha anche proposto di garantire gli ammortizzatori sociali anche ai precari della scuola. Oltre a questo, ha auspicato una contrattazione a livello regionale tale da inserire il criterio del merito e della produttività nello stipendio all'interno del contratto. E poi l'Alitalia, il sindacato dei lavoratori SDL, ha deciso di riproclamare per il 18 settembre lo sciopero di 24 ore del personale del gruppo Alitalia CAI, che era stato sospeso a luglio scorso. Lo rende noto un comunicato della stessa organizzazione, secondo la quale la dirigenza CAI è purtroppo ancora ben lontana dal garantire una piena funzionalità della compagnia. Per raggiungere questo obiettivo, si legge, si deve garantire il pieno il raggiungimento degli organici pattuiti e occorre mettere in discussione alcuni presupposti sbagliati che sono alla base del suo progetto aziendale. Fino a quel momento sarà molto difficile parlare di pace sociale. Questo il sindacato dei lavoratori dell'Alitalia CAI, che ha proclamato quindi uno sciopero per il 18 di settembre. E ora ci occupiamo del tema di quest'oggi. Parliamo di ripresa, di tentativi di ripresa. Dicevamo all'inizio di puntata, si parla di come ci potrà essere e quando ci potrà essere questa ripresa. Ci sono anche delle metafore che sono state utilizzate da alcuni economisti per cercare di capire se la ripresa sarà rapida ed efficace oppure se si ripiomberà in una fase di depressione subito dopo questi primi timidi segnali, appunto, di crescita dell'economia. Ma noi cercheremo di capirlo con alcuni ospiti e abbiamo con noi il professor Pier Carlo Padoan, vice segretario generale dell'OCSE. Buonasera. Buonasera. Allora, abbiamo parlato all'inizio di questa trasmissione di alcune metafore linguistiche, perché citavamo un articolo che abbiamo letto oggi con una sua collaborazione con il Riformista, nella quale parlava di ripresa a V, ripresa a W o ripresa L. Ci spiega innanzitutto, professore, di cosa si tratta fuori dalle metafore linguistiche? Fuori dalle metafore, la ripresa V è quella che tutti sperano, e cioè che ci siamo già in una ripresa molto rapida e che quindi la recessione molto presto sarà alle nostre spalle. La W invece è la situazione più brutta, perché questa vorrebbe dire che c'è una ripresa che stiamo vivendo adesso, ma questa ripresa si esaurisce presto e torniamo in recessione tra qualche trimestre, e questa sarebbe una situazione veramente poco favorevole. Infine la lettera L, una lettera L un po' strana, perché dovrebbe avere almeno nella parte finale della sua parte orizzontale una crescita, significa che ci sarà una ripresa, ma sarà molto più lenta e sarà anche più debole di quella del passato. Quindi queste metafore di lettere indicano diversi profili dell'andamento del prodotto mondiale, secondo le opinioni che si hanno. Prima di chiederle quello che vogliamo fare, che tipo di ripresa ci dobbiamo aspettare per l'Europa, ma soprattutto per l'Italia, diamo ai nostri ascoltatori alcuni ragguagli sui segnali positivi e negativi che stiamo verificando in questi giorni. Oggi, lo dicevamo prima nei nostri titoli, nelle headlines, ci sono dei segnali che arrivano dagli Stati Uniti o anche dalla Germania. Parlo della vendita delle case nuove negli Stati Uniti e dell'indice IFO in Germania, che possono far pensare a una situazione economica in un certo miglioramento. Ma ci sono ovviamente dei rischi, lo vediamo dai commenti di alcuni economisti. L'altro ieri il professor Nouriel Roubini, professore della New York University e soprattutto l'economista che è divenuto famoso per aver anticipato la crisi finanziaria mondiale, ha detto che in realtà non ci si può aspettare una ripresa a lungo termine, ma una breve ripresa e un forte rischio di una ricaduta, detto da lui insomma in un editoriale pubblicato sul Financial Times, visto che aveva previsto la recessione nella quale ci troviamo. Forse ecco, ci sono dei timori. E poi c'è anche la previsione del governatore della banca centrale tedesca Alex Weber, secondo il quale la ripresa dell'economia tedesca nel secondo trimestre non sarà sostenibile. Ecco, sono segnali contrastanti, ovviamente non abbiamo la sfera di cristallo per cercare di vedere che cosa accadrà, magari, però professore, dal suo osservatorio privilegiato all'OCSE, cosa si può pensare che accada nei prossimi mesi autunnali e poi per il 2010? Allora, innanzitutto segni di ripresa ci sono in Asia sicuramente, ci sono un po' negli Stati Uniti, in qualche paese europeo. La vera domanda da porre è non se ci sono questi segni, ma da cosa dipendono. Se si vuole essere cautamente ottimisti, bisogna ammettere che molti di questi segni di ripresa sono la conseguenza delle risposte di politica economica, monetaria e fiscale che quasi tutti i paesi hanno preso. Non dimentichiamoci che la risposta di policy coordinata dal G20 è stata senza precedenti, è stata massiccia in termini di iniezione di liquidità, massiccia in termini di stimolo fiscale, questo stimolo fiscale in molti casi ancora deve dare i suoi frutti. Quindi non è strano vedere dei segni di ripresa, è incoraggiante vedere che gli strumenti di politica economica funzionano. Il problema è sapere se dietro questo stimolo tirato dalla politica economica c'è anche uno stimolo che si autosostiene, cioè imprese che fanno investimenti, famiglie che tornano a spendere nel settore dei beni durevoli. Soltanto quando vedremo segni tangibili e duraturi di ripresa autosostenuta del settore privato potremo parlare di fine della recessione, altrimenti c'è il rischio che una volta che lo stimolo di politica economica sarà esaurito, l'economia tornerà a indebolirsi. Pochi giorni fa, all'inizio di questo mese, l'OCSE aveva parlato di dati positivi, segnali positivi per l'Italia. Per l'Italia e per la Francia i segni di una ripresa dell'economia ci sono già, leggevamo nei dati dell'OCSE, nel superindice di giugno diffuso appunto dall'organizzazione della quale lei è vicepresidente. Quindi per l'Italia qual è lo scenario? Lo scenario per l'Italia, gli indicatori a cui si riferiva lei sono indicatori in qualche modo meccanici che raccolgono in modo sintetico varie informazioni che vengono dall'economia, e siamo ben lieti di notare che nel caso dell'Italia e di qualche altro paese questo indice aveva smesso di cadere e cominciava a risalire. Detto questo, sull'Italia va confermata un'analisi che l'OCSE ormai fa da molto tempo, e cioè che l'Italia continua ad avere un tasso di crescita di lungo periodo, un tasso di crescita potenziale, come lo dicono gli economisti, che è molto basso, è più basso della media europea e riflette ritardi di natura strutturale. Quindi anche quando l'effetto della recessione, che è un effetto di domanda, sarà in qualche modo stato riassorbito, ci saranno nel caso dell'Italia problemi, diciamo così, dal lato dell'offerta, cioè la sua crescita potenziale, se non cambia nulla, rimarrà bassa anche in futuro. Per quanto riguarda la riconferma di Bernanke a governatore della Fed, annunciata proprio ieri con qualche mese di anticipo tra l'altro dal presidente americano Obama, lei come vede la decisione di Obama di riconfermarlo? Io penso che la decisione sia stata giusta. Non dimentichiamoci che Bernanke si è trovato al centro di una crisi di dimensioni ma anche di aspetti qualitativi senza precedenti. Ci sarà tempo per gli storici dell'economia di dare valutazioni più ponderate in futuro, ma una volta che uno si trova nel mezzo del ciclone deve fare quello che sa fare, e Bernanke sicuramente l'ha fatto molto bene, è stato anche in qualche misura innovativo e ha dato, come dire, un segno nuovo a come fare politica monetaria in condizioni eccezionali. Quindi non si discute la qualità del personaggio. Inoltre c'è un segnale di continuità, un segnale di fiducia di chi ha le leve della politica economica che il presidente Obama ha voluto dare. Mi sembra che in questo momento sia particolarmente importante confermare la fiducia in chi gestisce la politica economica, e quindi confermare l'idea che le misure prese, non solo di politica monetaria, sono quelle giuste. Dicevamo prima di queste previsioni un po' fosche dell'economista Rubini. Lui vede dubbi sul fatto che la ripresa abbia poi una tenuta e vede un rischio per una seconda recessione, un po' la W di cui lei parlava all'inizio. L'analisi di Rubini è un'analisi come sempre molto accurata, mette in fila tutta una serie di fattori per cui i problemi sono ben lungi dall'essere risolti, sono problemi che vanno dal livello microeconomico, i profitti delle imprese, il fatto che le famiglie negli Stati Uniti devono ricostituire la loro ricchezza e quindi devono risparmiare di più, a fattori macroeconomici globali, i cosiddetti squilibri globali dei pagamenti, che sono stati lo scenario macroeconomico in cui si è sviluppata la crisi, sono ben lungi dall'essere risolti. Non possiamo tornare indietro, dice Rubini, ad un modello di crescita che alimentava gli squilibri, e quindi se la crescita deve riprendere deve avvenire su basi nuove. Lui dice non si vedono segnali verso un nuovo modello di crescita dell'economia che sia sostenibile. Infine lui aggiunge una cosa importante, cioè che nel momento in cui la crescita riprende perché è sostenuta dalla domanda, si ripropongono problemi che diciamo 12 mesi fa erano importanti, poi ce ne siamo dimenticati, cioè quelli legati ai prezzi dell'energia, ai prezzi delle materie prime, che sono fattori di freno della crescita, non sono fattori di sostegno della crescita. Quindi in qualche modo lui si preoccupa che appena il motore ricomincia a marciare i vecchi problemi irrisolti ritornano alla superficie, quindi vede un rischio di W, appunto, di recessione che riprende la mano dopo un inizio di ripresa. Professore, prima di lasciarla, ringraziandola, torniamo un attimo all'Italia. Dicevamo preoccupazioni per quanto riguarda la disoccupazione. Si discute in questi giorni proprio della ripresa delle fabbriche a settembre. Vede nel rischio disoccupazione il principale rischio, mi pare di capire? La disoccupazione è un rischio grave per l'Italia e per tutti i paesi OCSE e non OCSE. Questo purtroppo va detto con molta chiarezza, perché l'evidenza storica ci dice che le recessioni, anche quando finiscono, continuano a generare disoccupazione. Questa recessione, qualunque sia il suo andamento, produrrà una disoccupazione che purtroppo durerà nel tempo, e questo avrà conseguenze negative ovviamente sui redditi delle famiglie, avrà conseguenze negative sulla crescita potenziale. Quindi nel momento in cui si disegnano politiche di risposta alla crisi, bisogna in primo luogo chiedersi in che modo si può mantenere il livello di occupazione, almeno difendere i livelli attuali per evitare che scendano nel futuro. Questo noi vediamo come uno dei rischi maggiori dei prossimi mesi. E c'è nell'analisi OCSE una differenza tra le preoccupazioni per il nord e per il sud Italia? Ma l'OCSE ovviamente è ben cosciente della diversità regionale in Italia come in altri paesi. L'OCSE ha da tempo raccomandato istituzioni del mercato del lavoro, diciamo così, che privilegino una combinazione di flessibilità e sicurezza. Sicuramente c'è un problema di diversa produttività nelle diverse regioni del paese che deve riflettersi nella remunerazione. Quindi questo è uno dei modi per affrontare la disoccupazione di lungo termine e le prospettive di occupazione di lungo termine in Italia. Grazie, ringraziamo il professor Pierpaolo Padoan, vice segretario generale dell'OCSE, che è l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico con sede a Parigi, e tra poco ci trasferiamo proprio a Parigi per parlare invece di bonus, dei bonus che vengono distribuiti nonostante la crisi in Francia, ma non solo in Francia, anzi in Francia hanno proprio pensato di mettere un freno a questo uso dei bonus verso i traders e i banchieri. Ne parliamo tra poco con l'inviato del Sole 24 Ore a Parigi, Leonardo Martinelli. Buonasera intanto. Buonasera. Bentornati a Focus Economia, e parlavamo quindi di Francia, perché proprio l'inquilino dell'Eliseo ieri, Sarkozy, ha ottenuto l'impegno da parte dei banchieri ad arginare i bonus straripanti dei traders, annunciando che sarà uno dei temi del G8 a Pittsburgh. Anzi, un'agenzia di poco fa dice: Sarkozy imporre limite ai bonus in tutto il mondo durante il G8 di Pittsburgh. La Francia chiederà di imporre un limite ai bonus bancari in campo internazionale, così ha annunciato Sarkozy davanti agli ambasciatori francesi. Abbiamo in collegamento Leonardo Martinelli da Parigi, del Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera. Allora, linea dura di Sarkozy, e quindi una cosa anche abbastanza popolare, immagino, in Francia, ma non solo in Francia, che segue però ad alcuni comportamenti delle banche, anche francesi. Parlo di BNP Paribas, insomma, di alcune banche che continuavano anche in questi tempi di crisi a dare dei bonus ai banchieri, è così? Beh, sai, i bonus vengono dati ormai da tutte le banche. Il problema è quanti bonus vengono concessi. Nel caso di BNP Paribas, che è una banca, va ricordato, che alla fine dell'anno scorso ha ricevuto dallo Stato, quindi dal contribuente francese, oltre 5 miliardi di euro per salvarsi dalla crisi finanziaria. Ebbene, BNP Paribas nei primi 6 mesi dell'anno, e questo l'ha annunciato agli inizi di agosto, ha già accantonato, quindi ha già messo da parte 1 miliardo di euro per pagare alla fine dell'anno i propri traders, insomma, che è una cifra ovviamente molto grande, che ha scatenato un putiferio qui in Francia, dove c'è un grosso risentimento nei confronti del mondo della finanza, soprattutto in questo momento di crisi economica reale per l'uomo della strada, diciamo. E quindi da quel putiferio poi è venuta la reazione di Sarkozy. Come dicevi, ieri ha incontrato i dirigenti delle maggiori banche e ha imposto una serie di limiti appunto ai bonus pagati ai traders. E chiederà anche, mi sembra, a Pittsburgh il 24-25 settembre agli altri paesi europei di fare lo stesso, perché ovviamente se in Francia verrà applicata questa stretta, potrebbe avere come effetto, se fosse solo applicata in Francia, una migrazione dei migliori trader verso piazze meno severe, penso ad esempio a Londra. Beh, questo è proprio il problema maggiore, diciamo, ricordato spesso dai banchieri. La grande rivale come piazza finanziaria di Parigi è Londra. Se i traders non vengono pagati, tra virgolette, a sufficienza, potrebbero appunto andare, e sembra che già ci sia una migrazione del genere verso Londra. Sì, Sarkozy appunto al G20 proporrà queste stesse regole a livello mondiale, però ieri ci ha tenuto a sottolineare che la Francia deve cominciare da subito con queste nuove regole. Una di queste nuove regole, forse è il caso di ricordarla, è una regola, la regola di introduzione del bonus malus, cioè il trader riceverà dei soldi quando appunto realizza dei guadagni, però dovrà anche pagarli quando sbaglia, in sostanza. Cioè il bonus che viene corrisposto per un investimento giusto non viene pagato immediatamente, ma solo un terzo viene pagato immediatamente, un terzo viene pagato l'anno dopo e un terzo 2 anni dopo. E nel frattempo, se il trader fa dei cattivi investimenti, si scalano questi, diciamo, dei malus da questi soldi. Quindi può essere che questo 2/3 del bonus il trader non lo riceva mai. Questa è ad esempio una delle nuove regole introdotte, probabilmente la più interessante, che Sarkozy vorrebbe proporre anche ai paesi del G20. Ecco, leggevo tra l'altro che sempre il presidente Sarkozy ha proposto che uno dei 2/3 sia pagato sotto forma di titoli della società per la quale il trader lavora, quindi così legando in maniera più stretta il destino di questo terzo a quello della propria impresa. E tra l'altro proprio oggi è venuto fuori anche un dettaglio ulteriore: queste sarebbero azioni bloccate per 2 anni, che quindi il trader non può vendere per 2 anni. Quindi, come vedi, sono regole molto, molto severe. In realtà si sapeva, insomma, di questo incontro già da qualche giorno, però gli ambienti finanziari francesi non si aspettavano una severità tale. È vero che Sarkozy non ha fatto ricorso ad altri metodi che invece appunto vengono ricordati spesso qui negli ambienti più che finanziari del governo francese, che appunto ha un po' il dente avvelenato con i traders, ad esempio aumentare le tasse su questi bonus, oppure mettere una soglia massima assoluta a questi bonus. Ecco, questi due tipi di interventi per il momento Sarkozy ha deciso di non metterli in applicazione. Però questo sistema del bonus malus è già, diciamo, un passo in avanti, almeno dal punto di vista di coloro che ritengono che i traders prendono veramente troppi soldi. Senza pensare che sia una situazione soltanto francese, per ricordarvi qualcuno di questi dati che non riguardano appunto solo la Francia, il procuratore di New York Andrew Cuomo ha scoperto che anche nel 2008, nonostante le enormi perdite, le banche americane hanno continuato a distribuire compensi straordinari a ben 5.000 dirigenti. Citigroup, nonostante perdite per 28 miliardi e 45 miliardi di aiuti pubblici, ha elargito bonus per 5,3 miliardi. Premi a 6 cifre anche per i dirigenti di JP Morgan, Merrill Lynch. Quindi, insomma, anche in America più o meno è la stessa storia. E in Europa si parla anche dell'italiana Unicredit, che ha già annunciato di voler riprendere la politica dei bonus. E per quanto riguarda la Francia, restando in Francia, che potere ha il presidente Sarkozy? Voglio dire, è soltanto un consiglio o può blindare questa decisione? No, no, queste sono regole che tra l'altro si applicano immediatamente, dovranno essere definite nei dettagli in questi giorni, ma si applicano immediatamente. Il presidente francese ha, diciamo proprio anche secondo la Costituzione, la legge francese, le leggi francesi, ha un potere molto forte, ma in questo caso il potere forte del presidente è dovuto proprio alla congiuntura, cioè al fatto che negli ultimi mesi dell'anno scorso la Francia ha salvato praticamente tutte le sue più grandi banche proprio con iniezioni di fondi pubblici, con dei prestiti che sì, dovranno essere resi un giorno, ma che sono stati, diciamo, una manna per questi istituti di credito, soprattutto per alcuni che erano veramente molto traballanti. Quindi si può dire che Sarkozy abbia il coltello dalla parte del manico. Tra l'altro ha minacciato alcune di queste grandi banche che hanno ricevuto aiuti pubblici di che non lavoreranno più con le amministrazioni pubbliche se non metteranno in atto questi malus bonus. Sì, questo è proprio una delle nuove regole già applicate, praticamente fra l'altro è stato anche nominato Cam Dessu, ex direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, come lo ha chiamato lo zar dei bonus il presidente. Cam Dessu dovrà controllare appunto il comportamento, diciamo, delle banche che hanno ricevuto i fondi pubblici, che poi sono le maggiori banche francesi, e chi sgarra non lavorerà più con lo Stato. Questo, diciamo, è un fatto da prendere in considerazione con una certa serietà, perché non lavorare con lo Stato francese vuol dire ad esempio mettersi fuori da tutte le eventuali introduzioni in borsa di società pubbliche, mettersi fuori ad esempio dal maxi prestito obbligazionario che Sarkozy vuole lanciare nei prossimi mesi, mettersi fuori dal rifinanziamento del debito pubblico francese sui mercati attraverso appunto le banche. Sono tutte operazioni che oltre a essere redditizie sono soprattutto operazioni molto prestigiose, quindi per una grande banca francese mettersi fuori da questo tipo di mercato sarebbe veramente un serio problema. E vedremo quindi, grazie innanzitutto al collega da Parigi per essere stato con noi, Leonardo Martinelli, vedremo quanto Sarkozy sarà capace di imporre queste regole più stringenti anche agli altri paesi, ha promesso di farlo in occasione del G20 che si terrà a fine settembre negli Stati Uniti. Ora parliamo invece di borsa. Giornata positiva per Piazza Affari, ma è l'unica in Europa a mantenere il segno più. Oggi il FTSE All Share ha guadagnato lo 0,26%, più 0,36% per il FTSE MIB. Invece in Europa è andata peggio, perché a Parigi l'indice è calato dello 0,33%, meno 0,63% per Francoforte, negativa anche Londra, meno 0,5%, male anche in questo momento il Dow Jones, meno 0,19%, il Nasdaq cede lo 0,41%. Borse quindi in negativo dopo due giornate positive, tranne che appunto Piazza Affari. Abbiamo in collegamento la collega di Radio Corriere Sole 24 Ore, Livia Zancaner. Buonasera. Buonasera. Allora, dicevamo, Milano la migliore, grazie anche ai bancari. Sì, allora Milano è stata trainata appunto dal comparto bancario e in particolare dalla Banca Popolare di Milano e dal Banco Popolare. Allora, la Banca Popolare di Milano ha infatti guadagnato il 14,7% beneficiando dei conti semestrali che sono stati presentati ieri. I conti, nonostante il difficile aumento di mercato, hanno infatti evidenziato un utile netto in calo solamente dell'1,7% a 125 milioni di euro, tant'è che gli analisti del Credit Suisse hanno alzato il giudizio outperform da neutral sul titolo e hanno incrementato del 15% le stime di utile per azione per il 2009 e del 25% per il 2010 e il 2011. Inoltre, allora, BPM ha confermato l'emissione dei Tremonti Bond e durante la conference call di oggi il condirettore generale del gruppo Enzo Chiesa ha detto che la società sta iniziando a discutere un piano strategico triennale in cui confluiranno varie iniziative avviate quest'anno. Per quanto riguarda le altre banche, appunto, diciamo, il Banco Popolare ha guadagnato il 5,15% in attesa della semestrale che verrà diffusa venerdì. Ieri un ascoltatore ci chiedeva l'andamento di Fiat, poi non l'abbiamo più dato, però oggi mi sembra positivo il titolo, più 0,71%, il settore invece in generale è in ribasso. Sì, infatti Fiat ha sovraperformato oggi il settore, che invece a livello europeo ha ceduto l'1,6%. Il titolo beneficia quindi oggi delle attese sulle immatricolazioni di nuove auto in Italia ad agosto. Secondo il Centro Studi Promotore, infatti, le immatricolazioni di nuove auto in Italia ad agosto stanno andando decisamente bene e potrebbero segnare un aumento a due cifre se continuerà la tendenza, visto la performance particolarmente negativa segnata nell'agosto del 2008. Intanto ovviamente va avanti il mercato, aspetta gli sviluppi sulla partita Opel, in particolare su un possibile rientro del gruppo Fiat nella partita, mentre in realtà oggi la cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto di sperare che da qui al prossimo CDA di General Motors, quindi l'8 al 9 settembre, vengano compiuti progressi su Opel. Bentornati a Focus Economia, stiamo parlando di borsa con Livia Zancaner, che è collega di Sole 24 Ore Radio Core. Stavamo parlando dell'andamento di Fiat, ma vorrei chiederti come sta andando, come è andata Pirelli oggi, perché un ascoltatore proprio ci fa questa domanda. Sì, allora, Pirelli oggi ha segnato un lieve calo. Dello 0,44%. Meno 0,44%. C'è un motivo particolare per questo lieve calo? No, in realtà non c'è nessun motivo, anche considerando il fatto che il comparto auto, e solitamente Pirelli si muove in linea con il comparto auto, in realtà ha perso oltre l'1,6%, quindi in realtà ha sovraperformato anche Pirelli, come Fiat ha sovraperformato oggi il settore. Giù anche Telecom, la società, secondo il quotidiano, il Sole 24 Ore, starebbe per lanciare un bond da 1 miliardo. Sì, infatti, allora Telecom ha perso lo 0,97% dopo la buona performance comunque registrata ieri. Secondo Sole 24 Ore, infatti, Telecom sta pensando al lancio di un bond da 1 miliardo destinato al pubblico dei piccoli risparmiatori, sulla scia quindi di quanto hanno fatto già altre società, tra cui France Telecom e Wind. Bisogna sottolineare comunque che ieri le azioni hanno ripreso a correre dopo il rialzo del 6% realizzato la settimana passata, e i guadagni di ieri sono stati motivati anche da un report positivo di JP Morgan sull'intero settore. Infatti gli analisti hanno alzato la raccomandazione da neutral a overweight. Saipem anche è in negativo. Sì, allora Saipem ha risentito del calo delle quotazioni del greggio, che oggi tratta intorno a $71 al barile, dopo aver segnato alla vigilia un rialzo consistente, soprattutto a metà giornata, quando era salito oltre la soglia dei $75 al barile. Allora, oggi il comparto energetico ha quindi chiuso in calo dell'1,6% circa, e a contribuire al ribasso del petrolio sono arrivati oggi anche i dati sulle scorte americane, che nella settimana terminata il 21 agosto hanno mostrato un balzo a sorpresa, mentre gli analisti si aspettavano un calo. Meno 1,74 l'automatica, questo riguarda un po' il giudizio che ne danno gli analisti. Sì, allora l'automatica è stata penalizzata dai realizzi dopo la buona performance della vigilia e dal giudizio degli analisti di Kepler, che hanno tagliato la raccomandazione sul titolo a hold dal precedente buy, mantenendo comunque il prezzo obiettivo a €16. Allora, in realtà gli analisti avevano alzato il giudizio a comprare lo scorso 8 luglio, in quanto ritenevano che ci fosse stata una reazione sostanzialmente eccessiva del mercato riguardante la concessione del gratta e vinci. E bisogna sottolineare comunque che dalla chiusura del 19 agosto a ieri il titolo ha guadagnato il 3,5% circa. Vediamo due titoli che riguardano un po' il mondo delle scarpe. Geox più 3,7%, anche Tod's bene, ha dato i conti. Tod's è in crescita nonostante la crisi, pare di capire. Sì, Tod's è infatti beneficiato della pubblicazione dei conti semestrali e delle dichiarazioni del presidente amministratore delegato Diego Della Valle. Infatti la società ha mostrato utili e ricavi in crescita nonostante il difficile momento di mercato. Nei primi 6 mesi del 2009 il risultato netto è salito infatti al 3,1% e i ricavi sono cresciuti al 3,4%. Secondo gli analisti i risultati sono stati in linea, ma hanno appunto sorpreso positivamente le indicazioni di Della Valle, il quale ha detto di essere molto soddisfatto dei risultati del gruppo e di ritenere che anche nella seconda parte dell'anno ci potranno essere dei buoni risultati, alla luce appunto dei segnali registrati nei negozi nelle ultime settimane. Per chiudere, risanamento, grande scuola di risanamento, dopodomani ci sarà il CDA per l'approvazione del piano industriale. Sì, allora risanamento è infatti guadagnato oltre l'11% in attesa del consiglio di amministrazione di venerdì, ma il mercato scommette anche sull'intervento delle banche per garantire il prestito obbligazionario convertibile a 220 milioni che scade nel 2014. Infatti, secondo la stampa, ieri è stato raggiunto proprio un accordo tra le banche per garantire l'emissione del bond fino alla scadenza, ma la società ha precisato che il via libera delle banche creditrici costituisce soltanto una delle ipotesi allo studio. E tra poco parleremo proprio di risanamento di questa questione. Io intanto ringrazio Olivia Zancaner, collega di Radio Corriere Sole 24 Ore. E quindi risanamento, fra due giorni ci sarà il consiglio di amministrazione, la società, lo ricordiamo, è quotata in borsa, appunto dicevamo un rialzo di oltre l'11% oggi, il fondatore era Luigi Zunino, imprenditore che opera da inizio anni 80 nel settore immobiliare, il 73% dell'azionariato di risanamento è in mano a Luigi Zunino, anche se il 19% circa è impegno a Intesa San Paolo e oltre il 26% a Unicredit. Questo per riassumere un po' brevemente la questione: risanamento a debiti per circa 3 miliardi di euro, a cui si somma 1 miliardo di euro riconducibile alle altre società del gruppo. Ci sono state diverse tappe. A luglio i PM milanesi hanno chiesto al Tribunale che venisse dichiarato il fallimento della società. Poi, sempre a luglio, Zunino si è dimesso da presidente e amministratore delegato. Le banche hanno messo a punto un piano di salvataggio e c'è stata un'udienza per il fallimento che poi è stata spostata al 22 di settembre. Entro il primo di settembre la società doveva depositare in procura il piano di salvataggio. Tra i vari nodi da sciogliere c'era anche questo del bond, avete sentito, ne abbiamo appena parlato, da 220 milioni di euro con scadenza al 2014, collocato presso investitori istituzionali. Di tutto questo parliamo adesso con Moria Longo, collega del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, non so se ho riassunto bene la questione, mi sembra che uno di questi problemi forse è risolto, quello del bond. Sì, per dire la parola risolto bisogna aspettare ancora la parola dei giudici del tribunale, perché è quello il vero nodo, il vero punto interrogativo. Per capire è quello che sta accadendo in questi giorni, bisogna proprio partire dalla richiesta di fallimento dei due PM che tu accennavi prima. A fine luglio questi due PM hanno chiesto il fallimento di risanamento perché a loro avviso questa è una società che ha un debito eccessivo e un'attività ormai che non ha più molto da esprimere. Addirittura loro evidenziavano che gli oneri finanziari dell'ultimo anno erano stati superiori al valore della produzione, quindi a loro avviso non c'era più nulla da fare, hanno chiesto il fallimento. Loro segnalavano una serie di punti negativi, tra i tanti punti negativi segnalavano il fatto che in tutti i piani di risanamento, scusate il gioco di parole, di salvataggio che erano stati tentati in precedenza, mai si era parlato di un aumento di capitale, per esempio. Ecco, il piano che le banche gli advisor stanno preparando ora, quindi dopo questa richiesta di fallimento, tiene conto di queste osservazioni fatte dai PM. Per esempio, il nuovo piano prevede un aumento di capitale, 150 milioni di cui 130 in cash e poi anche un bond convertendo, una cosa molto particolare. Un altro punto era quello dei debiti, quindi anche questo bond, come tu dicevi, il risanamento nel 2007 ha messo un bond convertibile che scade nel 2014. Questo bond potrebbe andare in default anche in questi giorni. Per cui se andasse in default sarebbe un vero problema, perché il risanamento, secondo le regole del bond, secondo il prospetto, se il bond andasse in default, quindi se un quarto degli obbligazionisti chiedesse il default del bond, il bond dovrebbe essere rimborsato subito, quindi non più nel 2014 ma oggi, e ammonta a 220 milioni. E le banche hanno garantito adesso. Ecco, quindi questo era un altro problema. Le banche hanno deciso di garantire questo bond con una linea di credito backup, quindi diciamo una linea di credito nel congelatore che verrà attivata solo ed esclusivamente se il bond andasse effettivamente in default. Quindi le banche stanno lavorando su questo piano di salvataggio che prevede appunto l'aumento di capitale, questa garanzia sul bond e prevede la vendita delle varie aree immobiliari nei prossimi 3 anni. Bisogna vedere a questo punto, quindi domani questo piano andrà al CDA di risanamento che dovrà approvarlo, entro il 1° settembre sarà depositato in tribunale e il 22 settembre ci sarà la prima udienza, non so se è l'unica, anzi non credo, per stabilire se il giudice deciderà se questo piano è sufficiente oppure no, cioè se anche con questo piano la società è decotta e quindi non c'è niente da fare, oppure se questo piano è credibile e quindi la società può andare avanti. C'è stato anche il passo indietro di Zunino nel frattempo? Nel frattempo c'è stato un passo indietro di Zunino, che ovviamente non è una questione irrilevante, anzi è molto rilevante, visto che lui era il patron della società, per cui se la società va male qualche colpa probabilmente c'era pure lui, e quindi le banche sperano che le banche, gli advisor, tutti quelli coinvolti in questa operazione di salvataggio, sperano che con questo nuovo piano di salvataggio si vengano incontro alle richieste dei PM e quindi sperano che i PM stessi magari ritirino la richiesta di fallimento oppure che il giudice la consideri non più attuale, quindi lasci la società in bonis. Bisogna vedere se però il giudice accetterà, se i PM, perché i PM dopo avranno tempo un tot di giorni per fare le loro controdeduzioni, quindi diciamo le loro osservazioni a questo piano di risanamento, e poi sarà il giudice a decidere. Quindi certo, diciamo che è una partita ancora tutta aperta. Dal punto di vista del piano di salvataggio, ormai il piano è, le linee del piano sono ormai più o meno note, più o meno si conoscono, è quasi fatto, anche se ancora oggi pomeriggio sono riuniti gli advisor e le banche per affinarlo così. Però diciamo che ormai l'ultima parola è dei giudici. Il 22 settembre quindi vedremo. Moria Longo, grazie per questo tassello del quadro risanamento. Per oggi è tutto. Mauro Del Corno in redazione, Fabio Cantadori in regia, al microfono Valentina Furlanetto. Buona serata a tutti. Focus Economia torna domani.